Capitolo 11. Era una serata di metà giugno. Anna, che stava correggendo dei saggi nella torretta di Windy Willows, si fermò per soffiarsi il naso, ormai arrossato e dolente per le frequenti soffiature. Anna, infatti, era la vittima di un raffreddore molto forte e molto poco romantico. Non riusciva nemmeno a estasiarsi per il fondale di cielo verde pallido dietro gli abeti di Evergreens. Per la luna bianco-argentea alta sul re della tempesta, per il profumo inebriante dei lilà sotto la finestra e per i fragranti iris color matita copiativa in un vaso sulla scrivania. Il passato le appariva più cupo e il futuro annebbiato. È un'indecenza avere il raffreddore a giugno, disse a Dusty Miller che stava meditando sul davanzale. Ma tra 2 settimane esatte sarò nella mia Green Gables. Invece di star qui a sudare e a soffiarmi il naso su saggi pieni di errori. Ah, pensaci, Dusty Miller. A quanto pareva, Dusty Miller stava pensandoci. Forse pensò anche che la ragazza trafelata che percorreva Spokes Lane, poi il viale e quindi il vialetto dei sempreverdi, aveva l'aria di essere fuori di sé e per nulla suggestionata dallo spirito di stagione. Era Hazel Marr, tornata il giorno prima da Kingsport. In capo a un paio di minuti irruppe nella camera senza attendere risposta al proprio deciso bussare. Oh, Hazel, cara, sei già tornata da Kingsport? Non ti aspettavo fino alla settimana prossima. E ci credo, disse Hazel con sarcasmo. Sì, signorina Shirley, sono tornata. E che cosa scopro? Che lei ha fatto di tutto per allontanare Terry da me, quasi riuscendoci. Hazel! Oh, so tutto. Ha detto a Terry che non lo amo, che volevo rompere il fidanzamento, il nostro sacro fidanzamento. Hazel, cara Hazel. Oh, sì, si prenda pure gioco di me, si prenda gioco di tutto, ma non cerchi di negarlo. L'ha fatto e l'ha fatto di proposito. Certo che sì, me l'hai chiesto tu. Io gliel'ho chiesto? Qui, in questa stanza, mi hai detto che non lo amavi, che mai avresti potuto sposarlo. Oh, sarà stato un momento di malumore e non pensavo che lei mi prendesse sul serio. Credevo che almeno lei comprendesse il mio temperamento artistico. Lei ha un secolo più di me, naturalmente, ma non può aver dimenticato le pazzie che dicono che fanno le ragazze, proprio lei che fingeva di essere mia amica. Deve essere un incubo, pensò la povera Anna soffiandosi il naso. Siediti, Hazel, per favore. Sedermi? Disse Hazel, misurando freneticamente la stanza. Com'è possibile sedersi quando la vita ti crolla attorno? Ah, se invecchiare vuol dire questo, diventare invidiose della felicità dei giovani e fare di tutto per distruggerla, allora spero di non invecchiare mai. A un tratto Anna si sentì prudere le mani. Era l'istintivo e selvaggio formicolio di chi vuole mollare uno schiaffone. Lo soffocò all'istante. Tanto da poter credere di non averlo nemmeno provato, ma rimase dell'idea che una buona punizione fosse indicata al caso. Hazel, se non riesci a sederti e a parlare con calma, è meglio che tu vada via. Ecci! Ho molto da fare ecci! Non me ne andrò finché non le avrò detto quello che penso di lei. Oh, so che è colpa mia, avrei dovuto saperlo, o meglio, lo sapevo. Appena l'ho conosciuta, ho capito istintivamente che lei era pericolosa. Già, capelli rossi, occhi verdi, ma mai avrei immaginato che sarebbe arrivata al punto di intromettersi tra me e Terry. Pensavo che fosse almeno una buona cristiana. Non ho mai sentito niente di simile. Se la cosa la soddisfa, lei è riuscita a spezzarmi il cuore. Oh, non voglio parlarle. Oh, io e Terry eravamo tanto felici prima che arrivasse lei a rovinare tutto. Ero tanto felice. Pensi, la prima del gruppo a trovare un fidanzato. Avevo già pensato ai particolari delle nozze. 4 damigelle con abiti di seta azzurra e gale bordate di velluto nero. Che chic! Oh, non so nemmeno se odiarla o compatirla. Come ha potuto trattarmi così? E pensare che io le volevo tanto bene, mi fidavo tanto di lei, contavo tanto su di lei. Hazel prese a singhiozzare con gli occhi pieni di lacrime e si lasciò cadere su una sedia a dondolo. I punti esclamativi deve averli quasi esauriti, pensò Anna. ma la tua scorta di parole in grassetto è inesauribile. La povera mamma ne morirà, disse Esel con voce rotta. Era tanto contenta, erano tutti tanto contenti, dicevano che eravamo una coppia ideale. Oh, tutto sarà diverso d'ora in poi. Oh, riprovaci al prossimo chiaro di luna, disse Anna con dolcezza. Oh, sì, rida, rida, signorina Shirley, rida del mio dolore. Non dubito affatto che lei trovi tutto questo molto divertente, davvero. Lei non sa cosa sia soffrire. È terribile, terribile. Anna guardò l'orologio a muro e starnutì. E allora non soffrire, disse spietatamente. E invece soffrirò. Io ho sentimenti molto profondi. Certo, chi ha un animo superficiale non soffre, ma grazie al cielo io sono tutto meno che superficiale. Lei ha una qualche idea di cosa vuol dire essere innamorati, signorina Shirley? Ma essere innamorati realmente, terribilmente, profondamente, meravigliosamente? E fidarsi di qualcuno ed essere traditi? Quando sono andata a Kingsport ero tanto felice, amavo il mondo intero. Avevo detto a Terry di essere buono con lei durante la mia assenza, di tenerle compagnia. Quando sono tornata a casa ieri sera ero tanto felice e lui mi ha detto che non mi amava più, che si era trattato di un errore, e che lei gli aveva detto che non mi importava più di lui e che volevo essere di nuovo libera. Ho agito in buona fede, disse Anna con una risata. Soccorsa dal suo sbarazzino senso dell'umorismo, stava ridendo di sé oltre che di Esel. «Oh, so solo io che notte ho passato», disse Esel agitatissima. «Sempre in piedi, avanti e indietro, e lei nemmeno immagina che giornata ho avuto oggi. Mi è toccato sentire, sì, con le mie orecchie, che Terry è infatuato di lei. Oh, la gente le ha tenuto gli occhi addosso, sanno tutto per filo e per segno, ma perché? Perché?» Ecco quello che non riesco a capire. Lei il fidanzato ce l'ha. Perché mi ha voluto portare via il mio? Perché ce l'ha con me? Che cosa le ho fatto? Secondo me, disse Anna al colmo dell'esasperazione, tu e Terry avete bisogno di una buona sculacciata. Se tu non fossi tanto arrabbiata e mi ascoltassi con calma... Oh, io non sono arrabbiata, signorina Shirley, solo ferita, gravemente ferita. Disse Esel con voce resa rauca dal pianto. Sento di essere stata tradita in tutto, nell'amicizia e nell'amore. Beh, si dice che quando il cuore è spezzato non soffre più. Spero che sia vero, ma non ci credo. Che ne è stato delle tue ambizioni, Esel, e del milionario che curavi e della luna di miele nella villa sul Mediterraneo? Credo proprio di non capire di che sta parlando, signorina Shirley. Io non sono affatto ambiziosa. Non sono una di quelle odiose donne moderne. Ambivo soltanto a fare un matrimonio felice e a creare un focolare felice per mio marito. Già, ambivo. Pensare che ne devo parlare al passato. Beh, non bisogna proprio fidarsi di nessuno. Questo almeno l'ho imparato ed è una lezione davvero amara. Esel si asciugò gli occhi e Anna si asciugò il naso. E Dusty Miller occhieggiò la stella della sera con il cipiglio di un misantropo. «Sarà meglio che tu vada, Esel, ho davvero molto da fare e non credo che sia di qualche utilità prolungare questa conversazione». Con l'espressione di Maria Stuarda condotta al patibolo, Esel si avviò alla porta e si voltò a lanciare un'ultima teatrale frase di congedo. «Addio, signorina Shirley, interroghi la sua coscienza». Anna, rimasta sola con la sua coscienza, posò la penna, starnutì tre volte e si fece un bel discorso. «Mia cara Anna Shirley, nonostante la tua laurea hai ancora parecchie cose da imparare, cose che saprebbe dirti e che ti ha detto persino Rebecca Dew. Sii sincera con te stessa e ingoia la pillola con coraggio. Ammetti di essere stata ingannata, o meglio incantata, dall'adulazione». Ammetti che ti piaceva la venerazione professata da Esel. Ammetti che godevi ad essere adorata. Ammetti che ti piaceva l'idea di essere una specie di dea ex machina, di salvare da un'impresa folle gente che non voleva affatto essere salvata. Una volta ammesso tutto questo, ti sentirai più saggia, più triste e più vecchia di mille anni. Allora riprendi la penna e continua a correggere i saggi, soffermandoti a notare che Myra Pringle definisce il serafino come un animale che abbonda in Africa. Capitolo 12. La settimana seguente arrivò una lettera per Anna, scritta su carta celeste bordata d'argento. Cara signorina Shirley, le scrivo per dirle che ogni malinteso è stato chiarito tra Terry e me. La nostra felicità è tanto profonda, intensa e meravigliosa che abbiamo deciso di perdonarla. Terry dice che è stato l'incanto della luna a fargli fare il cascamorto con lei e che il suo cuore mi è sempre rimasto fedele. Dice che a lui, come a tutti gli uomini, piacciono le ragazze dolci e semplici e che aborre quelle intriganti e astute. Non riusciamo a capire perché si è comportata così con noi e mai ci riusciremo. Forse le serviva del materiale per un racconto e ha creduto di trovarlo giocando con i teneri sentimenti di una ragazza al primo amore. Ma la ringraziamo per averci fatto scoprire noi stessi. Terry dice che ora ha infine compreso l'intima essenza della vita. Perciò tutto questo è stato utile. Noi due ci capiamo alla perfezione e ci leggiamo a vicenda nel pensiero, senza bisogno di parole. Solo io lo capisco e voglio essere per lui una costante fonte di ispirazione. Non sarò intelligente, ma questo lo sento, perché siamo anime gemelle e ci siamo promessi eterna fedeltà, a dispetto degli invidiosi e dei falsi amici che tenteranno di allontanarci. Ci sposeremo appena avrò il corredo pronto. Lo ordinerò a Boston. A Summerside non c'è proprio niente. Avrò l'abito da sposa di moire bianco e un completo da viaggio grigio tortora con cappello, guanti e camicetta azzurro per vinca. Certo, sono molto giovane, ma voglio sposarmi ancora giovane, prima di sfiorire. Terry è in tutto e per tutto l'uomo che mi figuravo nei sogni più rosei e il mio cuore batte solo per lui. So che saremo incommensurabilmente felici. Un tempo credevo che gli amici si sarebbero rallegrati della mia felicità, ma poi ho imparato un'amara lezione dalla vita. Sinceramente sua, Hazelmar. PS1. Lei mi aveva detto che Terry ha un brutto carattere, invece, a quanto dice la sorella, è un agnellino. Hazelmar. PS2. Ho sentito dire che il succo di limone fa sparire le lentiggini. Potrebbe provarlo sul naso. Hazelmar. Per citare Rebecca Dew, disse Anna Dusty Miller, il postscritto numero 2 è proprio l'ultima goccia. Capitolo 13. Anna tornò a casa per la seconda estate di vacanze con gioia mista a tristezza. Gilbert non sarebbe stato ad Avonlea. Era andato all'ovest, dove aveva trovato lavoro nel cantiere di una ferrovia in costruzione, ma Green Gables era sempre Green Gables e Avonlea era sempre Avonlea. Il lago delle acque scintillanti splendeva e luccicava come al solito. Le felci continuavano a crescere folte attorno alla bolla della Driade e il ponte di legno, anche se sempre più fragile e verde di muschio, conduceva ancora alle ombre, ai silenzi e alle canzoni del vento della foresta stregata. Anna era riuscita a convincere la signora Campbell ad affidarle la piccola Elizabeth per 15 giorni, non uno di più. Ma Elizabeth, che attendeva con ansia quelle 2 settimane intere da passare con la signorina Shirley, era già paga. «Oggi mi sento di essere la signorina Elizabeth», disse ad Anna con un sospiro di emozione mentre si allontanavano da Windy Willows. «Le dispiacerebbe chiamarmi signorina Elizabeth quando mi presenterà ai suoi a Green Gables? Mi farà sentire adulta». «Va bene?» promise Anna seria, ricordando la bimba dai capelli rossi che in un lontano giorno aveva implorato di essere chiamata Cordelia. Il viaggio di Elizabeth da Bright River a Green Gables, su una strada che solo il giugno dell'isola del Principe Edoardo può offrire, fu un'estasi simile a quella provata da Anna nella memorabile serata primaverile di tanti anni prima. Tutto era bello, i prati sembravano onde sospinte dal vento e dietro ogni angolo era in attesa una sorpresa. Era con la sua adorata signorina Shirley per 2 settimane intere. Sarebbe stata lontana dalle grinfie della donna. E poi aveva un abito tutto nuovo di percalle rosa e magnifiche scarpe marrone nuove. Era come se il domani fosse già arrivato, con un seguito di altri 14 domani. Quando furono infine nel viale di Green Gables, dove fioriva la rosa canina, gli occhi di Elizabeth avevano un'espressione rapita. Tutto diventò magico per Elizabeth. Non appena mise piede a Green Gables, per 2 settimane visse in un mondo di sogno. Bastava uscire di casa per imbattersi in qualcosa che faceva sognare. Ad Avonlea poteva accadere di tutto, se non oggi, almeno domani. Elizabeth sapeva di non essere ancora arrivata al domani, però era proprio al confine. Si sentiva una vecchia conoscenza di Green Gables. Persino il servizio da tè di Marilla con i boccioli di rosa le sembrava un vecchio amico. Quella casa le pareva di conoscerla e amarla da tanto tempo. Persino l'erba qui era più verde che altrove. E gli abitanti di Green Gables erano i tipici abitanti del domani. Volle loro bene e loro ne vollero a lei. Davy e Dora la adorarono dal primo momento e la viziarono. Marilla e la signora Linde non ebbero motivi di critica nei suoi confronti. Era graziata, fine ed educata con gli anziani. Sapevano che Anna non approvava i sistemi della signora Campbell, ma era evidente che aveva insegnato alla pronipote a comportarsi come si deve. «Oh, non voglio addormentarmi, signorina Shirley», mormorò Elizabeth quando, dopo una serata di incanto, fu sotto le coperte nell'abbaino. «Non voglio perdere un solo minuto di queste due meravigliose settimane. Preferirei non dormire per il tempo che starò qui». Non dormì per un po'. Era divino ascoltare il sommesso rimbombo che, come le aveva detto la signorina Shirley, era la voce del mare. Elizabeth lo trovava magnifico, come il sibilo del vento alla finestra. Elisabeth aveva sempre avuto paura della notte, degli strani esseri che assalgono al buio i bambini, ma ora non aveva più paura. Per la prima volta in vita sua, la notte le era amica. L'indomani sarebbero andate alla spiaggia, l'aveva promesso la signorina Shirley, e si sarebbero tuffate nelle onde dalla cresta d'argento che dall'ultimo colle avevano visto frangersi oltre le dune verdi di Avonlea. Elisabeth le vedeva ora arrivare una dopo l'altra. L'ultima fu una grande ondata scura, fatta di sonno. Le si rovesciò addosso. Elisabeth si lasciò travolgere con un soddisfatto sospiro di resa. «È così facile amare Dio qui», fu il suo ultimo pensiero cosciente. Ma ogni sera, durante la sua permanenza a Green Gables, restò sveglia per un bel pezzo a meditare, anche dopo che la signorina Shirley si era addormentata, perché la vita a Evergreens non poteva essere come a Green Gables. Elizabeth aveva sempre vissuto in un posto in cui era proibito fare rumore. A Evergreens ci si doveva muovere con cautela, parlare con cautela e persino, sembrava Elizabeth, pensare con cautela. A volte aveva l'atroce tentazione di mettersi a urlare. «Puoi fare tutto il rumore che vuoi qui», le aveva detto Anna. Ma era strano, ora che non c'era più nessuno a impedirglielo, non aveva più voglia di urlare. Le piaceva muoversi con tranquillità, passare con garbo tra le belle cose che la circondavano. Però Elizabeth imparò a ridere durante il soggiorno a Green Gables e al ritorno a Summerside portò con sé meravigliosi ricordi, lasciando dietro di sé ricordi altrettanto meravigliosi. Agli abitanti di Green Gables la casa sembrò per mesi piena di ricordi della piccola Elizabeth. Già, anche per loro era la piccola Elizabeth, nonostante Anna l'avesse solennemente presentata come signorina Elizabeth. Era così piccina, così bionda, così simile a un elfo che non riuscivano a pensare di chiamarla in altro modo. E allora, ecco tornare le immagini della piccola Elizabeth che ballava al tramonto tra i narcisi bianchi del giardino, della piccola Elizabeth libera come l'aria, intenta a leggere fiabe su un ramo del grande melo, della piccola Elizabeth in un prato di ranuncoli, dove la testa bionda si confondeva tra il giallo dei fiori, della piccola Elizabeth che rincorreva le falene verde argento o cercava di contare le lucciole nel viale degli innamorati, della piccola Elizabeth che ascoltava il ronzio dei bombi nelle campanule e della piccola Elizabeth che mangiava fragole e panna con Dora nella dispensa o ribes nell'orto. «I ribes sono bellissimi, vero Dora? Sembra di mangiare perline rosse». Della piccola Elizabeth che implorava Davy di insegnarle a muovere le orecchie. Della piccola Elizabeth che cantava da sola all'ombra magica degli abeti. Della piccola Elizabeth incantata davanti all'aiuola di margheritine sotto le finestre del salotto, della piccola Elisabeth con le mani profumate per aver colto le rigogliose rose centifoglie, della piccola Elisabeth che guardava la grande luna sopra la valletta del ruscello. Mi sembra che la luna abbia un'aria preoccupata. Non sembra anche a lei, signora Linde? Della piccola Elisabeth, che piangeva calde lacrime perché una puntata di un racconto di avventure in uno dei giornaletti di Davy non finiva bene per l'eroe. Oh, signorina Shirley, non riuscirà mai a cavarsela. Della piccola Elisabeth, fresca e rosea come una rosellina, che schiacciava un sonnellino pomeridiano sul soffà della cucina, attorniata dai gattini di Dora. Della piccola Elisabeth che si buttava via dalle risa vedendo le impettite galline con le penne della coda sollevate dal vento. Era proprio lei che rideva così. Della piccola Elisabeth che aiutava Anna a glassare le torte, la signora Linda a tagliare la stoffa per un nuovo copriletto a patchwork e Dora a lucidare i vecchi candelieri di ottone finché non ci si specchiava dentro. Della piccola Elisabeth che imparava a cantare Clementine e poi intonava casse di aringhe senza coperchi dovunque si trovasse. Della piccola Elisabeth che tagliava biscottini con un ditale sotto la direzione di Marilla. Insomma, gli abitanti di Green Gables non potevano guardarsi attorno senza che qualcosa ricordasse loro la piccola Elisabeth. Chissà se passerò mai più 15 giorni così felici, pensò la piccola Elisabeth quando partì da Green Gables. La strada fino alla stazione era bella come 2 settimane prima, ma Elisabeth non riuscì quasi a vederla perché aveva gli occhi pieni di lacrime. Non avrei mai creduto di sentire tanto la mancanza di una bambina, disse la signora Lind. Dopo la piccola Elisabeth arrivò a Green Gables Catherine Brooke con il cane per trascorrervi il resto dell'estate. Catherine si era licenziata dal liceo alla fine dell'anno scolastico e in autunno intendeva andare a Redmond per frequentare un corso di scienze economiche all'università. Glielo aveva consigliato Anna. So che ti piacerà, mentre insegnare non ti è mai piaciuto, disse quest'ultima una sera, mentre ammiravano uno splendido tramonto tra le felci che bordavano un campo di trifoglio. La vita mi deve di più di quanto non mi abbia dato e io voglio la mia parte, disse Catherine con decisione. Mi sento molto più giovane oggi di quanto non mi sentissi l'anno scorso a quest'epoca, aggiunse allegramente. Sono convinta che tu faccia bene, ma non riesco a pensare a Summerside e alla scuola senza di te. Come si sentirà l'anno prossimo la mia torretta senza le nostre serate di chiacchiere e discussioni? E le nostre ore di spensieratezza in cui trovavamo da ridere su tutto e tutti.